Ma in Italia la situazione non ha grosse modifiche rispetto agli ultimi 5 anni. Anche comunque i dati dell'OMS diffusi ieri non dicono niente di nuovo rispetto a quella che è la tendenza già delineata dal 2000 in poi, cioè l'aumento dei casi soprattutto in India, nell'Europa dell'Est e in alcuni paesi africani dove continua. In Italia la malattia ha un andamento abbastanza stabile, anche se c'è un aumento nell'ambito delle fasce, per esempio, degli immigrati, che rappresentano circa un terzo di nuovi casi di infezione, un aumento delle infezioni nelle donne e una tendenza percentualmente alla diminuzione dei tossicodipendenti omosessuali. Per quanto riguarda l'età, c'è un aumento dell'età media, però questo è dovuto al fatto che i nuovi casi di AIDS sono ritardati per effetto delle terapie antiretrovirali. C'è un aumento anche dei casi di ceppi virali che provengono dall'Africa e dal sud-est asiatico, ricircolano dei ceppi ricombinanti che sono il frutto della combinazione di questi ceppi orientali o africani con quelli che circolano in Italia, e anche di alcuni casi di ceppi resistenti, cioè persone che sono state trattate con farmaci antivirali, per molti anni diventano resistenti, quindi possono infettare altre persone, quindi con i ceppi che sono cambiati, non sono più quelli originali che c'erano prima dell'inizio della terapia. Dal punto di vista così politico, vogliamo dire, della politica sanitaria, sicuramente c'è una diminuzione dell'attenzione per quanto riguarda l'informazione, le campagne di informazione, e anche una diminuzione dell'attenzione soprattutto dei giovani, che pensano che l'AIDS ormai non sia più un problema, che ci sia il vaccino alle porte, cosa che non è vera, e anche che si possa guarire dall'AIDS. Quindi c'è anche una cattiva informazione. Quanto alla notizia che è stata data ieri sul problema dell'identikit, che ci sono identity, io lo tengo sbagliato, perché è un messaggio pericoloso, perché uno si dice: io non mi identifico in quell'identikit di quella persona che ha 37 anni, che è uomo eterosessuale. L'AIDS è una malattia che può colpire chiunque attraverso le note modalità, e non ci sono identikit, non si tratta di trovare un killer, ma purtroppo di trovare quali sono le persone che hanno comportamenti a rischio, e sono le più varie. Si può infettare chiunque dai 18 anni ai 100 che abbia un'attività sessuale, o delle persone che si scambiano le siringhe, oppure persone che hanno rapporti anche omosessuali. Quindi credo che sia estremamente pericoloso dare la figura di identikit, perché uno dice: io non appartengo a quell'identikit e quindi mi sento in un certo modo non a rischio, perché non sono inquadrato in quell'etichetta lì.